Chissà se ne è valsa la pena di arrivare fin qua, da quell'alba lungo questa catena, dalla tua città. E chissà se eri stata sincera nel parlarmi di te quando eri ancora straniera in questa mia città. Chiuditi bene la sera, i guai lascia fuori di là, dalla casa ora galera o giardino che rifiorirà. In questa stanza sincera ora entra il sole, un po' di felicità, e si sente una preghiera, e chi l'ascolta non ti deluderà. E non c'è tregua e dimora, e non l'hai persa né la ritroverai, per riabbracciarmi la sera, oltre il tempo di questa nostra età. Chiuditi bene la sera, i guai lascia fuori da qua, dalla stanza dove ero bambino e dove spero tu rinascerai. Sì, ne è valsa la pena di arrivare fin qua e di andare lungo questa catena verso un'altra età. E lo so, eri stata sincera nel parlarmi di noi, di quello che avevi sperato e di com'è andata poi. Bene stasera, i guai lascia fuori da qua, e anche se pace non c'era, bambina tu ritornerai. In questa stanza sincera ora mi siedo qui accanto a te, sul letto dove stasera dormi e dove sogni già.